Una città chiamata Il Signore è là. Leggo in Ezechiele capitolo 9, versetto 3. E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Ezechiele 10, 18, 19. La gloria del Signore partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le loro ali e si innalzarono su dalla terra. Io li vidi partire con le ruote accanto a loro. Si fermarono all'ingresso della porta orientale della casa del Signore, e la gloria del Dio di Israele stava sopra di loro, su in alto. Ezechiele 11, 22-23. Poi i cherubini spiegarono le loro ali, e le ruote si mossero accanto a loro. La gloria del Dio di Israele stava su di loro, in alto. La gloria del Signore si innalzò in mezzo alla città e si fermò sul monte situato a oriente della città. Ezechiele 43, versi 1 a 5. Poi mi condusse alla porta che guardava a oriente. Ecco, la gloria del Dio di Israele veniva dal lato orientale. La sua voce era come il rumore di grandi acque e la terra risplendeva della sua gloria. E io caddi sulla mia faccia. La gloria del Signore entrò nella casa per la via della porta che guardava a oriente. Lo Spirito mi portò in alto e mi condusse nel cortile interno. Ed ecco, la gloria del Signore riempiva la casa. Ezechiele 48:35. Da quel giorno il nome della città sarà Il Signore è là. Ezechiele nel VI secolo a.C. era uno degli israeliti deportati in Babilonia prima della caduta di Gerusalemme. Durante l'esilio egli ricevette da Dio il compito di far comprendere ai suoi connazionali in esilio che il giudizio di Dio su di loro sarebbe stato più pesante di quanto loro immaginassero. Essi speravano di tornare presto nella loro terra, ma Ezechiele doveva far comprendere loro che il peggio doveva ancora venire e che presto anche la capitale sarebbe caduta. Nelle sue visioni in particolare, egli vide la gloria di Dio, ovvero il Signore stesso, che si allontanava dalla città in maniera progressiva dal Tempio verso la periferia, come abbiamo visto nei versi appena letti. Tali visioni presagivano la distruzione della città avvenuta in effetti intorno al 587 a.C. per mano di Nabucodonosor. Che immagine terribile dovette essere vedere la gloria di Dio che si allontanava dalla città, ad indicare che Dio stava abbandonando il suo popolo, lasciandolo in mano dei Caldei. Ma come abbiamo letto, Ezechiele ha visto anche un futuro radioso per la città, con un tempio ricostruito in cui Dio sarebbe tornato a manifestare la sua gloria. Solo nel momento in cui la gloria del Signore fosse ritornata nel tempio, la città avrebbe potuto chiamarsi Il Signore è là. La progressione vista da Ezechiele ci fa comprendere un principio molto importante: è la presenza di Dio a determinare la sicurezza della città. Infatti, quando la gloria di Dio lasciò Gerusalemme, essa andò incontro alla distruzione, mentre solo quando il Signore avesse garantito la sua presenza, la città sarebbe stata nuovamente al sicuro. Il destino di Gerusalemme, passato e futuro, è strettamente legato al suo rapporto con Dio. Solo quando Dio ha garantito la sua presenza nella città, essa è stata al sicuro, nel passato e così sarà ancora nel futuro. Solo quando Gerusalemme tornerà compatta al suo Dio e al suo Messia, con un tempio ricostruito, un tempio che non dovrà più essere profanato, descritto in Ezechiele nei minimi dettagli e non corrispondente a nessun tempio finora costruito, si realizzeranno ancora le parole con cui si chiude il libro di Ezechiele. Da quel giorno il nome della città sarà Il Signore è là. In attesa che queste parole trovino il loro completo adempimento, anche noi dovremmo preoccuparci della presenza di Dio nella nostra vita. In fondo, ad ognuno di noi, se abbiamo ristabilito una relazione con il nostro Creatore, egli ha garantito la sua presenza in noi e potremmo quindi essere chiamati Il Signore è là. Tu hai questa certezza nella tua vita?